Io ho dei ragazzi speciali, ho una società che è speciale e, come ho detto prima, penso anch'io di essere speciale. No, io mi sento normalissimo, io sono il normal one. Il normalone, detta insomma. Il normalone sembra un po'... No, sembro sovrappeso, visto che un po' ci tengo la linea, insomma. I'm European champion, so I'm not one of the bottle. I think I'm a special one. Tutti convocati di Carlo Genta. Buongiorno a te, mi dico Carlo. Pippo da Piacenza. Ma Pippo da Piacenza, mi dispiace per lei, ma oggi non riuscirà a parlare di Balotelli. Ma cosa mi importa? Cioè, cosa mi importa di parlare di Balotelli, che è ricominciata la Champions League, e nessuno di voi, nemmeno Franco Piantani, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia, che hanno fatto i pronostici a parte, ci ha beccato sulla Juventus ieri sera. Poca fiducia. La Juventus è arrivata prontissima di gambe e di testa alla partita che aveva nel mirino. Riascoltatevi con Paolo Nutini. La Juventus merita, non so se merita 10, merita un voto alto. Ditemi voi, 800 24 00 24, con quel gol di Matri, e poi ne parleremo con calma, che a me è sembrato l'episodio più interessante dell'intera partita. Pronostico. Io pronostico 2-1 per la Juventus. Visti i precedenti, noi in Europa, se non si soffre qui, non si va mai avanti. Quindi sparo un 2-2, mi auguro di cuore. X. Sono fiorentino, ma secondo me stasera Juventus 2 Celtic 0. Pensate un po' che il Fiorentino è quello che ci è andato più vicino. Fate voi, amici juventini, che non ci credevate. La Juventus ha reso piccolo, o comunque sottolineato in blu, i difetti del Celtic, con le sue verticalizzazioni, contro centrali che sembravano gatti di marmo, con il poco talento oltre la tre quarti. Celtic in casa, una squadra piccola, neanche tanto, perché al di là della vittoria sul Barcellona nella prima fase, le ultime 23 in casa di Champions League ne aveva perse soltanto due, ed entrambe con il Barça. Saluto e ringrazio Gianni Balzarini da Mediaset. Ciao Gianni. Ciao, buongiorno. Io ci credevo abbastanza, invece. Non sono juventino, ma ci credevo. Una Juventus che è arrivata prontissima di gambe e di testa, appunto, a questa partita che cui pensava dal giorno in cui, nelle vacanze di Natale, ha caricato la preparazione. Ma tu ci credevi? Io avevo molta fiducia in questa squadra, anche nonostante, insomma, tutti gli avvertimenti della vigilia sul fatto che il Celtic aveva battuto il Barcellona, aveva perso solo il 94esimo al Nou Camp. Insomma, io avevo la profonda convinzione che la Juve fosse superiore a questo avversario. Detto questo, è stata una vittoria larghissima nel punteggio, però è uno di quei casi, secondo me, in cui il punteggio non rende esattamente l'idea di tutto quanto è accaduto in campo. Sì. C'è da rimarcare due situazioni diametralmente opposte tra di loro, no? Il fatto che fosse la prima volta che quest'anno la Juve capitalizza il 90% delle occasioni che crea, perché ha creato 4, massimo 5 palle gol, se si considera quel piattone di Vucinic, sì, fermato da un difensore prima che probabilmente parasse il portiere. E quindi questo può essere letto come magari un'inversione di tendenza rispetto a quello che era un difetto acclarato, direi, della Juve fino a ieri. E di rimando, la Juve non concedeva così tante palle gol agli avversari in passato, e ha concesse un po' tante ieri. Ecco, tra il primo e il secondo gol ce ne sono state tante. Vogliamo leggerci un fatto positivo anche in questo? Un'inversione del destino, magari? Recentemente bastava che la Juve concedesse una palla gol e l'avversario la buttava dentro. Ieri ne ha concesse 5-6 e l'avversario non le ha buttate dentro, quindi c'è sempre una duplice lettura in tutte le no, situazioni. Non c'è dubbio, Celtic ha giocato una partita britannica come sì, ce ne sono poche. È stata una partita comunque divertente da vedere, almeno per chi tifoso non è una partita giocata su ritmi molto alti, e in questo ci leggo la chiave positiva per la Juventus, perché mi sembra una Juventus che da allora in campionato è stata l'unica a vincere le due di febbraio. Mi sembra una squadra in netta crescita dal punto di vista fisico. Aggiungo il fatto, tu parlavi della percentuale di realizzazione, noto che Matra è uscito dall'incomprensibile angolo del castigo in cui Conte l'aveva messo. Mi sembra che lui e Vucinic siano al momento il meglio che l'attacco della Juventus possa spremere, e certamente la coppia mi sembra migliore rispetto a quella formata con Giovinco. Sì, in questo momento sì. In questo momento sì, perché Matri, al di là del fatto realizzativo, perché poi sai bene che gli attaccanti sono un po' così, vivono dei momenti bui e poi improvvisamente cominciano a trovare il gol con continuità. In Matri ci sono da rimarcare due aspetti fondamentali, secondo me. Una crescita a livello tattico, nel senso che ha cominciato finalmente a capire bene, o comunque a mettere in pratica bene, ciò che Conte chiede ad un attaccante. Lui era quello forse che faceva più fatica di tutti, sì. Cioè i rientri, il possesso palla, il palleggio, il fraseggio, lui era sicuramente un finalizzatore fino a poco prima che arrivasse Conte ha voluto un po' trasformarlo, e direi una condizione fisica che in questo momento lo mette ad un livello superiore rispetto a certi suoi compagni di quel reparto. E questa è una condizione un po' generale, secondo me, comunque, perché evidentemente il lavoro che Conte ha fatto svolgere nel periodo post-natalizio, non dimentichiamo che dal 28 dicembre al 4 gennaio la Juve ha fatto 11 allenamenti, sempre il doppio, con preparazione atletica al mattino e tattica al pomeriggio. Ecco, questo lavoro sta cominciando evidentemente a pagare, perché comunque è una squadra che ha ritrovato una certa sicurezza che deriva anche dal fatto di avere fiato, di avere la capacità di arrivare prima sul pallone, cosa che un pochino era mancata, ma si dava per scontato che mancasse, era successo così anche l'anno scorso, poi sai, sì. Dopo magari si enfatizzano le situazioni e si va a leggere lo score e dici cavoli, però è una situazione che... È una situazione che neanche alla Juventus hanno mai nascosto. L'altro giorno Marotta, proprio ospite da noi, ha detto effettivamente abbiamo caricato molto nel periodo della sosta natalizia, quindi, e quindi una certa flessione dal punto di vista fisico era da mettere in preventivo. Gianni, ti ringrazio. Di nulla, grazie a voi. Un abbraccio. Grazie Gianni Balzarini da Mediaset. Adesso, dopo il traffico, io aspetto voi, che ieri avete sbagliato tutti i pronostici. 800240024. Su Twitter Emanuele Vecchi scrive: per cortesia, i Gobbi sono superiori al Celtic, però per 70 minuti il Celtic ha giocato, si è trovato sotto subito il Celtic e non avevo dubbi che giocasse e corresse. Luigi invece: da milanista ieri il Celtic non in palla ma grande Juve con Buffon e un centrocampo di un altro pianeta. Strade. Il biglietto era d'Ambrosi, era pagato te dal Sudafrica, no? No. Noi ci siamo preoccupati di far tornare a Samoa. Tutti convocati. Allora, cari miei amici convocati, 800240024, non vedo l'ora di parlare di quel gol che è stato l'episodio più curioso dell'intera serata, forse anche più interessante per chi insomma guardava questa partita, ripeto, molto divertente, con occhi da appassionato, insomma. E non so se si possa creare un precedente, però di fatto il gol di Matri è stato assegnato nell'intervallo dall'UEFA, non è stato assegnato dall'arbitro in campo, e questo mi ha fatto sorgere molta curiosità, tanto che a notte fondo ho chiamato Franco Piantanida per avere conferma, ma stava dormendo. Allora, 800240024, numero verde, Lassad, provincia di Alessandria, buongiorno. Buongiorno signor Carlo, complimenti per la trasmissione. Grazie, c'è Alberto che ha giocato 5 euro sul 3-0 e ne ha vinti 80. Caro Alberto, voglio vedere la giocata, perché se no non ci credo. Lo scrive via SMS. La sa, dica. Allora, io anzitutto ti aggiungo qualcosa in più per il gol di Alessandro Matri, che l'ho capito subito. Marchisio, guarda Giustino, che Marchisio ha fatto il secondo gol. Per Alessandro Matri si tratta del primo gol europeo e sono contento per lui. Sì, ho capito, però se Marchisio non la butta dentro, che succede? Se Marchisio non le butta dentro. Allora questa lì, a questo punto avevo sentito un collina un'ora fa su Radio Sportiva, dice che il quarto arbitro di linea ha già indicava già che c'era una rete già. E c'era esattamente fino al cardio la palla dentro. Sì, la palla era dentro, però non mi sembra che nessuno l'abbia indicata, quindi allora, e soprattutto però l'arbitro non l'ha concessa, quindi allora, sul tabellino fantasma, per la nostra fortuna c'era il principino dietro, per la nostra fortuna, e poi il destino che il principino sì, no, ma per vostra fortuna io non lo metto in dubbio, ma calcisticamente parlando, se non c'è il principino dietro come lei lo chiama, cioè Marchisio che la sbatte dentro, allora che cosa succede? Perché qui si tratta soltanto del cambio di nome sulla classifica dei marcatori e quindi è una storia un po' più semplice. Però ma è successo che il nome di un marcatore venisse corretto dalla regia, no? Dalla regia dell'UEFA, e questo mi sembra l'episodio interessante, perché se il quarto arbitro non ha segnalato nulla, probabilmente era impallato, la situazione era molto veloce e molto difficile, ma se non c'è Marchisio che la ribatte in porta? Poi non si tratta di correggere il nome di un gol, si tratta di capire se è gol o no. E torniamo a monte. Santo, provincia di Treviso, buongiorno. Sì, salve, buongiorno, dottor Genza. Niente, io mi sto facendo questa domanda ormai da parecchio tempo. Allora, sono un grandissimo tifoso della Fiorentina dagli anni di Battistuta. Sì. Immaginavo realmente una stagione diversa, con i grandi investimenti che ha fatto anche la famiglia della Valle, però mi devo rimangiare tutto. Ma perché? Perché secondo me la famiglia della Valle, con gli acquisti che ha fatto, mi sarei ritrovato realmente una Fiorentina da quarto posto. Ma no, ma lei è eccessivamente cattiva. Io me la vedo una Fiorentina, la Delio Rossi proprio, una Fiorentina deludente. No, io no. Io no, e le dico perché la Fiorentina comunque ha cambiato moltissimo, ha cambiato l'allenatore, ha giocato un girone d'andata eccellente anche dal punto di vista del calcio che ha dimostrato, ha avuto una serie di episodi, non stiamo a ricordarli tutti, contrari, sfavorevoli, sfortunati, eccetera, eccetera. È una squadra che può crescere ancora, è una squadra molto giovane, dunque io tutto questo pessimismo francamente non riesco a condividerlo, Santo. Lei parla da tifoso, Fiorentina a quarto posto, magari può essere ancora. Certamente è una Fiorentina interessante, molto interessante anche in prospettiva, quindi non sarei pessimista come lei, fossi tifoso viola. Dunque, sentiamo prima di andare oltre, 800 24 00 24, naturalmente siete tutti convocati su tutto ciò che volete dire e su tutti i pensieri che avete. Pensieri sportivi, naturalmente, gli altri ci interessano meno. Allora sentiamo Antonio Conte dopo la vittoria di ieri sera sulla bolgia del meraviglioso Celtic Park. Io ho avuto la fortuna e il piacere di vivere situazioni e campi caldi, ma questo penso che è qualcosa di impressionante. Chi sta dentro, io non riuscivo proprio a comunicare tante volte con i calciatori, dovevo fare tramite passaparola, e ogni calcio d'angolo c'era uno stadio che veniva giù, quindi complimenti ai ragazzi, non era facile. Non era facile, complimenti alla tifoseria scozzese, a quello stadio, a quei cori, a qualcosa di veramente molto bello. Ma sentiamo un altro Conte che parla di Matri. Sì, assolutamente, questa è una situazione, il gol che abbiamo fatto è un gol molto bello, perché viene da una situazione di gioco provata e riprovata tante volte, quindi sta Alessandro, come ho detto, l'ho paragonato un po' a me, no? Perché tecnicamente io prima di arrivare alla Juventus l'ho lavorato tanto per essere un giocatore da Juventus, e lui sta lavorando per cercare di migliorare nelle sponde, nella qualità delle giocate, e sta facendo molto, molto bene. Facendo molto bene, infatti gioca, prima era invece nel dimenticatoio, ma anche l'anno scorso non è che avesse fatto poi malaccio. Continuo a parlare con gli ascoltatori mentre c'è chi via sms 349-238-6666, si congratula con l'Inter per l'acquisto di Icardi, ma devono decidere a farli giocare a sti giovani, basta cambiasso, Zanetti, Milito, facciamo giocare i giovani, scrive l'ascoltatore. Kovacic per esempio non ha giocato domenica, ma perché era infortunato, è stato però mi pare convocato per l'Europa League, segno che l'infortunio era lieve e tornerà a disposizione. Domenico, provincia di La Spezia. Buongiorno, grazie per avermi convocato, anche se sono fuori forma come peso. Perché fuori forma? Sono fuori forma perché non sto facendo sport da un po'. È male, molto male. Bravo, hai detto. Bisogna tornare a correre. No, Domenico. Mi sono messo sul divano come un italiano. No, cartellino giallo, cartellino grazie. Giallo. Lo sì, sport, sì. Anzi, mi piacerebbe che i convocati rispondessero alla convocazione correndo con l'auricolare. Benissimo, lo farò e vedrai che ti soddisferò alla grande. Bravo, così mi piaci. Dai. Allora, torniamo a noi. Io ho il privilegio di non essere un tifoso di una squadra grande, ma di essere simpatizzante per qualcuno, per carità. E quando giocano gli italiani in Coppa, mi fa piacere vedere che la Juventus, il Milan, l'Inter, che so io, portino dei risultati importanti a casa. E la Juventus ieri mi ha dato la soddisfazione di essere italiano, sportivo, ma italiano, perché... è andato, come hai detto te qualche minuto fa, è andato al momento giusto, con la perfetta efficienza fisica e mentale, ad affrontare un quadro straordinario di tifosi, perché veramente si merita un elogio speciale, e ha fatto la partita. È inutile che mi stanno a dire hanno giocato fisicamente, ma no, a livello tecnico, a livello tattico, a livello mentale, la Juventus era di gran lunga superiore. Sì. Sì, ha fatto la partita, l'ha anche in parte subita dal Celtic, anche perché ovviamente è una partita condizionata da un gol segnato dopo 4 minuti, dunque era inevitabile l'arrembaggio del Celtic, però la Juventus è stata molto brava nell'andare a colpire le debolezze del Celtic, in particolare su quei due centrali con i lanci verticali che arrivavano da metà campo. Da lì è arrivato il primo gol con il centrale nigeriano, che si è fatto superare da questa palla che rimbalzava come neanche in terza categoria. Grazie Domenico, mi raccomando, vai a correre. Grazie, ciao. I'm on my way to Glasgow. Ed eccolo l'inviato speciale Diego Confalonieri, olimpionico di scherma. Ciao Diego. Diego, dove sei? Dove stai? Sei ancora al pub? Diego? Ragazzi, ancora al pub davvero? Diego Confalonieri, dove sei? Non lo sento mica. Non c'è. Secondo me è alle prese con lo sponsor dei Celtic, Diego Confalonieri. Eh? Ah. 800 24 00 24, il numero verde. Io voglio sentire la vostra anche su quel gol, oltre a sentire quella che arriverà tra poco da un esperto. Voglio sentire la vostra su quel gol assegnato dall'UEFA, perché oggi non mi pare che sia stata rimarcata più di tanto questa vicenda, che è una vicenda in effetti molto strana, dato che l'arbitro non aveva concesso la rete di Matri, ma quella di Marchisio. Quindi qui è solo il cambio di un nome sul tabellino, ma in altri casi cosa può succedere? Può fare giurisprudenza un caso come questo? Diego Confalonieri, ci sei? Sì, ci sono, ciao ragazzi, buongiorno. Ti vedevo ancora alle prese con i pub, non ti sentivo, ho detto sarà ancora al pub. No, ieri abbiamo festeggiato con altri tifosi da Juventus, però insomma tutto bene, siamo all'aeroporto, pronti per tornare a casa, felicissimi, una grande partita, sì. Un grande stadio, un grande spettacolo. Da sportivo ti chiedo, io ho detto in apertura, la Juventus è arrivata prontissima di gambe e di testa a questa partita che aveva nel mirino da tempo, hai avuto questa impressione anche tu dal Celtic Park? Sì, devo essere sincero, da sportivo devo dire che è stato uno spettacolo incredibile. Noi un'ora prima della partita eravamo a bere una birra con tutti i tifosi del Celtic in un loro pub, si scherzava, si rideva, poi alla fine della partita è incredibile, tutti a battere le mani, noi a loro, loro a noi, e c'è stato uno scambio di sciarpe con dei bambini, delle mamme, una cosa che da noi è veramente lontana anni luce, per cui uno spettacolo incredibile, lo stadio molto bello, molto caloroso. È una partita molto molto sofferta. molto molto sofferta per te che sei tifoso, perché in vantaggio 4 minuti. Penso che la Juve abbia trovato una squadra che l'abbia messa sotto dal punto di vista fisico e della foga agonistica. È difficile della Juventus chiusa nella propria metà campo per almeno 80 minuti. La Juve ha dovuto soltanto aspettare il momento giusto per colpire. Diciamo la verità, i Sezzi, che è una squadra molto fisica, ma tatticamente, tecnicamente molto molto, lascia molto desiderare. Fisicamente come l'hai vista la Juve, Diego? L'ho vista molto bene. Ieri secondo me la difesa è tenuto benissimo, il centrocampo ha fatto un po' di fatica perché doveva più coprire che impostare, e devo essere sincero, ieri il migliore in campo è stato Martin Casas, che spesso tutti non di cui molti non parlano bene, ma secondo me ieri ha fatto una partitona, veramente partitona, e quindi Juve insomma ha fatto bene, conta a mettere Peluso e a mettere Matri a posto di Giovinco e Giacchino a sinistra per avere più fisicità, e quindi secondo me tutto è azzeccato, tutto è nato come doveva andare. Sono d'accordo, grazie Diego, buon viaggio di ritorno e a presto. Grazie a voi, a prestissimo. Ciao. Un abbraccio, Diego Confalonieri, olimpionico di scherma, come ben sapete. C'è chi scrive: il marcatore è una mera questione statistica, per quello che l'UEFA l'ha assegnato a tavolino. E no, non la vedrei così facilmente, non la risolverei in questa maniera così facile. Tutti convocati. Allora, 800 24 00 24, siete sempre tutti convocati su ogni argomento sportivo, ogni pomeriggio dalle 2 alle 3, ma io voglio tornare sull'argomento che mi interessa di più, perché il gol di Matri, chi l'ha visto? Sinistro, cercare lo spunto di Matri, pallone che filtra, Matri, il pallone che termina dentro l'arbitro e poi arriva il gol, Marchisio, 1-0, l'arbitro non aveva convalidato, Matri aveva toccato, forse aveva salvato il difensore del Celtic, ma poi a mettere le cose a posto ci ha pensato Marchisio, secondo gol in questa Champions League. Mi sembra il caso di disturbare per un attimo Graziano Cesari su un episodio come questo. Buon pomeriggio Graziano. Ciao, buon pomeriggio a voi. Allora, è un episodio unico al mondo. Gol assegnato non dall'arbitro, bravo peraltro, Undiano Majenko, ma d'ufficio dall'UEFA. Ebbene, che in effetti non era stato convalidato dall'arbitro di porta. Quindi è inevitabile che l'UEFA intervenisse d'ufficio, anche perché tu sai che le realizzazioni in Champions sono importantissime per i calciatori, per premi successivi alle squadre, per la valorizzazione dei calciatori. Quindi il gol ha visto la Moviola. Dai. È il primo episodio. Finalmente. E saranno contenti tutti, no? O molti. Tutti contenti, meno che Platini sicuramente. C'è il padrone del vapore, no? O il comandante del vapore. Detto, mettiamo gli arbitri di porta, vedete che cosa succede. E poi sono nati proprio per vedere il gol o non gol, no? Dopo si è dato altre competenze, ma sono nati per quello che... Li mettiamo in contrapposizione con l'occhio di falco e il pallone intelligente, combinazione vincono l'occhio di falco e il pallone intelligente. Bravo, cioè l'unica soluzione che secondo me ha un senso. Esatto. Ma se non arriva Marchisio e la butta dentro, rimane 0-0 però. Ah, guarda, io ho sentito Malenko stamattina e mi ha detto: Malenko, sai qual è il fuori classe che noi ammiriamo di più? Sì. Claudio Marchisio. Ascolta Graziano, ma può fare giurisprudenza un fatto come questo? Perché a questo punto non si tratta della paternità di un gol, di chi scrivere nel tabellino, ma di un precedente su un gol non concesso in campo. Bravo, con questa scusa qua potrebbe essere utilizzata sempre la Moviola. Sempre e comunque, perché d'ufficio, se loro vanno a vederla e questi soloni dell'UEFA vedono che per realizzare un gol, per dare la paternità del gol è stato questo calciatore, potrebbe utilizzarla sempre e comunque. È chiaro che poi diventerà un pericolosissimo precedente. Bravo. Perché io non oso immaginare, se questo gol non fosse stato convalidato e se la partita grandissima Juventus non fosse finita 3-0. Certo. Non oso immaginare cosa sarebbe successo. Certo. Quindi vuol dire che ci sono i mezzi per vederle queste cose, no? Perché noi, io ero a casa come tanti altri tuoi radioascoltatori, e l'abbiamo visto immediatamente nel secondo replay, quello che si vedeva dalla porta, quello alto, nel terzo replay. Si vedeva benissimo, quindi cosa abbiamo impiegato? Più o meno un minuto, dai. Sicuramente. Quindi era, ecco, questo dà da pensare, e che non si voglia assolutamente introdurre questo mezzo meccanico che faciliterebbe poi la conduzione della gara successiva, ma anche per la vita di un arbitro. Io, guarda, siccome io sono stato vittima di un fatto del genere, il mio non era in tappa 5 centimetri, ma un metro e mezzo. Cioè. Sì, ma io sono sempre per la soluzione dell'arbitro in casi difficili come questo, soprattutto quando il pallone è a mezza altezza, cosa che non era ieri, però è veramente molto difficile da capire. Insomma. Ma poi tieni presente che è anche molto difficile. Adesso ieri c'è stato un caso di questo tipo con una terna, con un sestetto spagnolo, dove non è utilizzato l'arbitro di porta in Spagna. Quindi la difficoltà di un arbitro che si trova lì a fare qualche cosa che non fa mai. Certo. Quindi per quello che dico che è difficile creare anche uniformità, collaborazione, omogeneità, perché tu non lo fai mai, sei lì e cosa fai? Inevitabilmente, e te lo dico per esperienza, guardi la partita, non c'è nulla da fare, cioè sono spettatore non pagante. Sì, sì, sì. Ma certo, ma anche in Italia a me non riesce a convincere questo esperimento, anche se i nostri provano a farlo tutte le domeniche, però è stato messo lì così all'improvviso, un discorso che abbiamo già fatto, e non riesce a convincermi la fluidità dell'arbitraggio. No, comunque. Ma assolutamente, ma io ti posso garantire che dal punto di vista per esempio degli assistenti, un assistente che comincia in interregionale e arriva in Serie A è abituato a quel ruolo. Un assistente che si trova catapultato in Serie A dopo aver fatto l'arbitro di C ha delle difficoltà enormi. Poi guarda, io l'ho fatto in tempi passati, quando gli arbitri di Serie A facevano anche gli assistenti, non ci capisci niente, non sai nulla, non vedi nulla perché vedi la partita in un altro modo, la vedi appiattita, orizzontale, non in verticale, quindi diventa difficilissimo, è una cosa impressionante, come, per un mezzo secondo, dai. È come lo stopper che viene messo a fare il centravanti, insomma. Bravo, stessa cosa, sì. Stessa cosa. Senti, Cristiano, ti chiedo ancora un dettaglio che mi hanno chiesto gli ascoltatori, ma ieri sera abbiamo visto sempre l'attaccante del Celtic andare a fare a botte con Lichtsteiner sulla linea di porta di Buffon. Sì, e non si può. Non si può? Non si può fare. No, non si può. Ma siccome questi due qua volevano fare a botte, l'arbitro ha fatto bene a farla salire. Volete fare cazzotti, fate pure. E fate pure, a me non interessa, fate quello che volete, basta che poi non rompiate durante la partita, che ve la vedete sempre voi due, vi lascio fare quello che volete fare. Un giallo a testa e via andare. E via andare, sì, ed è così. Grande Graziano, grazie. Grazie a voi, buon proseguimento. Grazie Graziano Cesari, 800 24 00 24. Adesso Platini farà mettere i giudici di porta sdraiati sulla traversa. Ferdinando lo scrive. Ma il giudice di linea dove guardava? L'ha detto Cesari, Ricky da Mantova, guardava la partita. 800 24 00 24, numero verde, Filippo da Siena. Ciao Carlo, buonasera. Ciao sono Filippo. Da Siena. Buonasera. Li mette sdraiati sulla traversa Platini, è ufficiale. Li mette sulla traversa, ma sì. Io sarei favorevole per i gol non gol alla Muntari o alla Birof, che dir si voglia. Graziano, visto, ricordava quello del primo novembre 1997, e fu una situazione anche quella un po' imbarazzante, che poi originò molte contestazioni. Io lavorando con la legge trovo che fu una considerazione che feci subito e dissi: ma come, è stata calcolata un'interruzione del gioco, perché il gol comporta l'interruzione del gioco 3 secondi dopo grazie a Marchisio, ma rilevato alla televisione. Se non fosse arrivato Marchisio, giustamente non veniva concesso. Non sarebbe stato. Ma quindi tu sei per, non ho capito, per io quale soluzione? Per l'occhio di falco sulla traversa, sì. Certo. Credo poi che ai giudici di linea bisognerebbe forse dargli meno incombenze, visto che a volte fanno un po' di confusione sui rigori. Sì, questo esperimento dei giudici di fondo campo, secondo me, è tutto da collaudare, ancora da collaudare, ancora da rodare, ancora da allenare. Io sono sempre stato favorevole al pallone col sensore, all'occhio di falco sulla traversa, a questo e soltanto a questo, però non stiamo a fare discorsi di moviola in campo. Certamente sta. Ed è l'importanza di questo episodio sta nel fatto che si crea un precedente, no? Si crea un precedente decisivo, perché lì arriva Marchisio, fa gol, quindi che segni Marchisio, che segni Matri, alla fine poco importa, ma c'è questo precedente. E allora, se non arriva il giorno in cui non arriverà Marchisio, o non arriverà El Shaarawy, o non arriverà Cristiano Ronaldo, non arriverà Messi, non arriverà chi volete voi. Come la mettiamo? Andiamo a chiederla a Platini o all'UEFA? Bruno, provincia di Macerata, 800 24 00 24, numero verde. Ciao direttore. Ma che direttore? Chi è il direttore? Si chiama Fabio Tamburini il direttore. Io allora, direttore salve sono. Mister, buongiorno. Mister, va bene, perché vi convoco, quindi mister. Bruno. Perfetto, perfetto. Dica. E niente, io dimmi. Sono d'accordo con il pallone, con i sensori, perché mi sembra la cosa più giusta, e così altrimenti finirebbero le discussioni, mentre con solo con il pallone, con i sensori, continuerebbero le discussioni che secondo me sono il sale del calcio. Sì, sì. No, io sto ridendo come un matto. Senti questo messaggio, Bruno. Metterei il quarto arbitro collegato a quella fune qui attaccata la telecamera volante. Questo è il migliore di tutti tra i messaggi di oggi. No, allora Bruno, per provare a fare i seri, cosa che non ci riesce benissimo, il sensore sì, siamo tutti d'accordo, ma Platini lo ha bocciato e c'è l'esperimento del quarto arbitro. Però l'UEFA, di cui Platini è a capo, ieri ha concesso un gol a uno che non aveva di fatto segnato. No? Il senso del discorso è questo? O no? Sì, sì, ho capito, ma secondo me il quarto arbitro fa la fine del terzo, perché non penso abbia un grosso peso sulle decisioni. Ma però bisogna sempre sentire Messier Platini, perché lui, essendo il presidente dell'UEFA, fa il bello e il cattivo tempo. Sono curioso di sapere qual è il commento di Platini su questo episodio, che i suoi, insomma, con i suoi che hanno cambiato il tabellino. Poi rimangono questi, come quello di ieri sera, episodi estremamente complicati, perché la palla era molto veloce, il salvataggio molto veloce, la palla non era entrata sì, ma per questioni di millimetri, come diceva prima Cesare, ce ne siamo accorti al terzo replay, cioè quello corretto, altrimenti non si capiva. Quindi da questo punto di vista, arbitro assolto, secondo me. Tutti convocati. Se non piange oggi, non piange più il primo dei tifosi dei Celtic, che ieri sera era ovviamente in tribuna. Meraviglioso Tonight's the Night. Tanto abbiamo ascoltatori internazionali, perché Luca ci cinguetta su Twitter da Hannover, convocato in podcast, Juve cinica, Matri fondamentale, risultato generoso, grazie Ambrose, che è quello che si è fatto, il centrale nigeriano si è fatto scavalcare dal pallone che poi ha permesso il gol di Matri, e lo stesso Lennon ieri ha detto, beh, forse non ho fatto benissimo a farlo giocare. 800 24 00 24, vi voglio qui tutti i giorni dalle 2 alle 3 perché siete sempre convocati. Maurizio, provincia di Pavia, buongiorno. Buongiorno a lei. Niente, sembrerà paradossale, ma io sono un tifoso della Juve e la mia seconda squadra è la Fiorentina. Non so se magari si possono contare sulla mano delle dita in tutta Italia. Comunque le volevo chiedere tre cose, diciamo, fondamentali, cioè riguarda al di là della partita di ieri sera, che se non segnava Marchisio eravamo tutti d'accordo che nell'intervallo non avrebbero sicuramente segnato il gol alla Juve, e questo è evidente, è scontato, no? Quindi non capisco, secondo me potevano lasciarla così com'era, facevano meglio, forse una bella, più bella figura. Secondo me, ripeto, hanno creato un precedente certo, viscido, certo, un precedente scivoloso. Sì. Dica. Certo. No, poi l'altra cosa che volevo chiedere, allora io mi ricordo, ieri sera è stata una grande partita della Juve, per l'amor di Dio, nessuno la può mettere in discussione, io mi ricordo comunque anche la Juve a Madrid, con i due gol di Del Piero che ce l'ho ancora nel cuore, quindi quella è stata secondo me ancora meglio di questa. Vabbè, no? Questa a livello emozionale le volevo dire, ma chiedere scontato. Due cose allora. Prego. Fondamentali, la prima era quella: se lei ritiene che se non so se posso avere ragione su questa cosa, io ritengo che l'unica vera punta della Juve secondo me è Quagliarella. E io non riesco a capire perché Matri, Quagliarella, scusi Matri, non, che cos'è? No, sto dicendo a livello, Quagliarella è uno che comunque anche a spalle la porta si gira tira in porta, sì. È forte in quel senso lì, cioè io sto dicendo che secondo me però con Conte magari non vanno tanto d'accordo, quindi Quagliarella a volte ha fatto panchine e a volte anche tribuna. Sì, lo vede poco come vedeva poco Matri fino ad ora. Sì, ma poi quando è con l'acqua alla gola magari poi prova a metterli, no? E l'altra cosa che volevo dirle a lei, adesso io non dico che sono un sentimentale, però io il Del Piero di adesso che sta giocando a Sydney e purtroppo è capitato nella squadra peggiore dell'Australia, no? Perché io a livello calcistico tecnicamente sono zero, sì. A livello agonistico invece sono fortissimi, non è neanche facile per lui giocare con un livello agonistico così forte a 38 anni, sì. Probabilmente lui ha fatto 18 partite, ha segnato 11 o 12 gol, adesso non me li ricordo più, in una squadra che è penultima in classifica, diciamo, sì. Penultima. No, io dico, quel Del Piero lì, un tre quarti d'ora nella Juve, un tempo, nella Juve non avrebbe fatto la differenza ancora. No, ma lei ha fatto la premessa giusta, è un romantico, ma se l'immagina lei come sta bene Del Piero in questo momento? Ma se l'immagini in Australia, apre la finestra, c'è il sole, c'è la spiaggia. Ha fatto una scelta di vita, è andato a vivere in un paese meraviglioso, è andato a fare un'esperienza una volta che ha deciso di chiudere con il calcio, dopo essere stato fatto fuori dalla Juventus nel modo che conosciamo. Quindi io invidio Del Piero, ma non poco, più di quanto invidi chi gioca nelle nebbie e nel freddo dalle nostre parti. Magari romantico sono io. Ugo, Roma! Pronto? Pronto? Volevo parlare dell'azione Europa League, perché sì. Sinceramente la Juve non l'ho seguita e non mi interessa neanche. Sì. Mi interessa solo una cosa per il posto in Champions. Per esempio, cosa pensa della Lazio? Fino a dove può arrivare? Perché ho visto che prima snobbavano spesso l'Europa League, invece adesso hanno un po' smesso e questo mi sembra una bella idea. E un'altra cosa, ho sentito prima che parlava di Ambrose. Sì. E da Nigeria vincitrice della Coppa d'Africa, io sono di origine nigeriana, quindi cosa pensa del calcio africano? Per esempio l'altro mondiale il Ghana è arrivato molto in là, poteva anche fare di più se non fosse stato per quel fallo di mano sulla porta. Ugo, cosa pensa della Nigeria? Del calcio africano io mi fido di Filippo Maria Ricci, è un meraviglioso incompiuto, è un calcio che ha dei limiti tattici, che ha dei limiti di guida, che ha dei limiti strutturali, e siamo qui da vent'anni a dire o di più a dire prima o poi una squadra africana, vedrete, arriverà in finale ai mondiali, però mi sembra che questi limiti strutturali non siano ancora stati superati e non so quando verranno superati. Quanto all'Europa League invece, io noto una interessante e finalmente auspicabile inversione di tendenza con Mazzarri, con Stramaccioni, con Petkovic, che si sono decisi a trattarla come una competizione seria, sebbene molto difficile e poco remunerativa, perché non credo che sia molto diverso a livello di difficoltà vincere l'Europa League o vincere la Champions League, perché comunque il livello è molto alto. Mazzarri domani fa giocare Cavani, lo fa giocare dall'inizio. L'Inter la vedremo giocare con una formazione seria e così la Lazio. Alberto da Piacenza, e poi vi faccio sentire appunto questa intervista, vi do un paio di notizie al volo e poi vi faccio sentire questa intervista sulla lotta estromessa dalle Olimpiadi. Alberto. Sì, salve. Detta. Dunque niente, questa qui è un'idea, è una messa a punto che è uscita dal blog del suo predecessore Garanzini. Quando ci siamo accapigliati allegramente, ma molto amichevolmente, sì. Tra juventini, minteristi, milanisti e quant'altro. E finché anche con un juventino ho trovato un punto di contatto sul fatto che la Moviola in campo poteva servire. Allora, a furia di dire la propria, si è anche arrivati, io sono arrivato anche a pensare che forse tutti, anche perché una dichiarazione di Rizzoli, cioè gli arbitri, ben vengano gli arbitri ancora uno in più, uno in meno. Cioè, alla fine sembra che sia diventato un'agenzia di collocamento, mettere arbitri in campo. Un po' agenzia di collocamento, lo è, ma soprattutto c'è il fatto che, insomma, che ieri sera abbiamo visto come il quarto, come l'arbitro di fondo campo non è in grado di dirimere tutte le controversie. Poi, infatti, una cosa che io sostengo è che comunque l'arbitro di linea è in una posizione in cui difficilmente riesce a definire palla dentro, palla fuori. Alberto, mi scusi se mi interrompo, ma siamo in chiusura. È molto difficile in valore assoluto stabilire se quella palla è entrata o no, perché, ripeto, è entrata di pochi centimetri, di pochissimi centimetri e di in una maniera molto veloce, è stata salvata anche in una maniera molto veloce. Io però voglio chiudere, riesco a far sentire l'intervista? Voglio chiudere con questa intervista realizzata da Dario Ricci a Diagoro Timoncini, unico atleta della lotta azzurra a Londra 2012, lotta che viene sport storico, che viene escluso per ragioni di marketing e televisive dalle Olimpiadi. Sentiamolo. Sinceramente per me è stato un po' la doccia fredda, perché mai e poi mai mi sarei immaginato, diciamo, questa esclusione. Il fatto di forse riguardare il regolamento, poter cambiare qualche cosa, ci può stare, ma non escludere del tutto, dai. È uno degli sport su cui è stata fondata l'Olimpiadi, quindi sarebbe anche brutto escluderla, come tutti i secoli di storia. Io presumo che questa decisione qui sia dovuta forse a quest'ultima Olimpiadi, che ha avuto il riscontro che si poteva aspettare dalla lotta, forse è stato uno degli sport meno seguiti, e quindi forse il CIO ha deciso di escluderlo così a priori. Infatti io mi auguro ci sia qualche ripensamento, nel senso che rivalutano un po' il tutto. Secondo me da qui a settembre succederanno ancora tante altre cose. Lo speriamo tutti insieme in coro. Grazie a Franco Piantanini, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia. Ci sentiamo domani alle 2. Che direttore, piantala lì. Ci sentiamo domani alle 2, tutti convocati. Ciao. In bocca al lupo a Sanremo. Dopo non so, perché nel mondo dello spettacolo magari fanno mille scongiuri, nostri in bocca al lupo, sono un po' superstiziosi. Un in bocca al lupo sincero. Merda? Merda. Mi ricordo montagne verdi e le corse di una bambina. Io sognavo montagne verdi. Ciao direttore.